perché non vuol, non, mangiare bene non vuol dire mangiare male. Quindi aglio senza, senza l'anima praticamente. Dobbiamo farmi mancare il nutraceutico. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Se rinasco, rinasco cipolla, perché mi, mi sembra che sia perfetta. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Una fetta di torta di cacao e albicocche, un pancake alle mele, una fetta di pane integrale alle noci, uno yogurt greco e miele, waffle di avena e mirtilli, una crepa alla crema di gianduia, una fetta di torta di cocco, un frullato di banana. A quest'ora è una stilettata al cuore, mi sta dicendo Carmelo Lauricella che in regia alla parte tecnica ascoltando questa scheda, è vero. Noi abbiamo appena ascoltato un elenco di 8 ricette, allora voi provate a fare una classifica mettendo ai primi posti quelli che mangereste più volentieri e poi provate a metterli in ordine in base al contenuto calorico, è un po' difficile, eppure siamo attrezzati a farlo, allora risentiamo la scheda. Una fetta di torta di cacao e albicocche, un pancake alle mele, una fetta di pane integrale alle noci, uno yogurt greco e miele, waffle di avena e mirtilli, una crepa alla crema di gianduia, una fetta di torta di cocco, un frullato di banana. Allora, abbiamo provato in modo un po' empirico a riproporvi un test che ha permesso all'equipe guidata da Alain Daguet dell'Istituto Neurologico di Montreal di dimostrare che il nostro cervello la sa lunga. E ce lo facciamo spiegare dalla dottoressa Giovanna Luini, che abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi, comunicatore scientifico e scrittore. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Il nostro cervello si intende anche di calorie e di dolci. A quanto pare sì, anche se poi vi dico cos'è il risultato al mio test, sono un po' inquieta. In questo studio molto interessante di recente pubblicazione, 29 volontari sono stati invitati a guardare immagini di una cinquantina di alimenti diversi, tutti comunque noti. Sì. Hanno dovuto classificare questi alimenti su una scala con 20 gradini a seconda della voglia di mangiarli. Poi hanno dovuto stimare le calorie. Sì. E poi hanno dovuto fare un'offerta in denaro per ogni alimento in modo da valutare la voglia di mangiarlo, se paghiamo tanto qualcosa perché lo vogliamo, altrimenti no. E il primo risultato è molto interessante perché tutti sono stati disposti a spendere di più per i cibi con più calorie, anche quando magari sbagliavano un po' la classifica, sì, comunque volevano pagare. Calorico per... e ricco, esatto, anzi costoso. Poi c'è stata la risonanza magnetica cerebrale a ciascuno mentre ripensavano alle immagini di questi alimenti. Sapete che si può fare una risonanza magnetica che si chiama funzionale, quando noi pensiamo a qualcosa la risonanza vede quale area del cervello si accende. Augurandosi che si accenda qualcosa. Sì, se non si accende a quel punto è già finito lo studio, oppure più significativo ancora. Comunque questa risonanza ha mostrato che l'attività cerebrale di questa corteccia prefrontale associata allo stimolo del gusto è risultata proporzionale al tenore calorico dell'alimento. Più calorie e più si accende il cervello. E hanno poi fatto altri studi sempre con la risonanza e c'è un'intensità maggiore dell'attività del cervello proporzionale al livello di insulina. L'insulina è un ormone che arriva subito quando noi mangiamo e arriva tanto più quanto più mangiamo determinati alimenti. Sì. Quindi lo studio è decisamente interessante. Io ho provato a fare questo test con la classifica e a questo punto sono un po' disperata perché prima io ho messo la fetta di torta di cacao albicocche, poi ho messo la torta di cocco, poi ho messo la crepe alla crema di gianduia, il pancake alle mele, il waffle di avena e mirtilli, Poi ho rapidamente perso interesse e dopo c'è lo yogurt greco e miele, la fetta di pane integrale alle noci e il frullato di banana. Vorrei dire che, esatto, appena sono arrivata qui mi hanno detto i tuoi colleghi che l'unica cosa che io so fare è il frullato di banana, effettivamente è vero. E voi? Che cosa avete scritto? Qual è il vostro elenco? Tra l'altro tutte queste ricette noi non le abbiamo prese a caso, anzi se qualcosa o qualcuna di queste vi interessa in modo particolare non dovete fare altro che chiamarci all'800240024 e noi in diretta vi leggeremo la ricetta, perché abbiamo qui sotto mano il libro da cui sono tratte, ma la cosa più importante è che c'è anche l'autore, il dottor Attilio Speciani, che oggi a Cuore Denari ci ha portato la sua ultima fatica, chissà perché si dice così, invece io sono sicura che il dottor Speciani, che intanto salutiamo, buongiorno dottore. Buongiorno a tutti, un saluto dolce oggi. Un saluto dolce, si è molto divertito a scrivere colazione e brunch per il benessere, tra l'altro un libro che lei ha scritto a più mani. Ah, direi che è stato scritto e prodotto direi dall'intera famiglia Speciani, nel senso che io e mia figlia Michela, che si sta completando adesso gli studi di medicina, abbiamo curato la parte scientifica, la parte comunicativa, la parte di analisi delle reazioni individuali a cibo. E poi mia moglie Marina, che ha davvero dato il meglio della sua abilità di fotografa da un lato, ma soprattutto di cuoca, nel costruire ricette, nel provarle tutte, lo dico con serenità. Tra l'altro sarà simpatico, presenteremo il libro al Circolo della Stampa il 3 di novembre, sì, in pomeriggio, ma sarà una scena da Casa Vianello, se posso dire, nel senso che abbiamo passato intere settimane, direi un anno e mezzo, non intere, sì, settimane, in cui c'erano memo tac gialli sopra ricette sfiziosissime, buonissime, eccetera, con scritto non toccare, devo fotografare, non mangiare, vietato mangiare, non mangiare. E quindi abbiamo avuto ospiti che hanno atteso la fine della presa delle fotografie prima di poter assaggiare le varie cose, per cui è stata un'esperienza intrigante. Però aggancio un aspetto bello, perché prima la dottoressa Luini parlava di questa ricerca, è presente nell'evoluzione esattamente come la prima colazione, cioè il momento in cui noi cerchiamo zucchero e cerchiamo ricchezza di sostanza è documentato anche negli animali. Gli animali non diventano, non è che diventano stupidi quando sono in cattività, vanno a cercare specificamente quello che trovano, e se trovano pizza con sopra la marmellata la mangiano, perché è ricca, è un cibo denso e gli risparmia la fatica di andare in giro a cercare. Certo. Tutti noi siamo un po' pigri, no? Nella storia. Allora, questo è un elemento forte. E noi dobbiamo trovare, perché poi tutta la gente si lamenta di ciccette di qua, di là, eccetera. Mm-hmm. Se riusciamo a identificare degli elementi come una prima colazione per rendere invece stimolanti i nostri ormoni, facciamo un bel passo verso la salute. Abbiamo dato la preferenza oggi alle ricette dolci, ma nel libro del dottor Speciani ci sono naturalmente anche ricette salate, perché noi oggi vogliamo parlare proprio della voglia di dolci che molti di noi avvertono nel corso della giornata, per capire anche quanto è dolce la nostra dieta. Ma non ci limiteremo a parlare dello zucchero che mettiamo nel caffè, ma di zuccheri, che sono una categoria di nutrienti che ha un ruolo molto importante per la nostra salute e che conviene conoscere bene. Quindi zucchero e zuccheri e alternative allo zucchero. 800 24 0024, potete continuare a mandarci messaggi al 349 238 6666. Parleremo, dottor Speciani, della voglia di dolce, di indice glicemico dei cibi e di glicemia. È un parametro molto importante per la nostra salute. Concordate tutte e due, dottor Speciani, dottoressa Luini? Sì, io concordo assolutamente, perché il livello dello zucchero nel sangue influenza tutto, influenza perfino il rischio di alcune malattie. È noto, per esempio, che il rischio di tumore o il rischio di ripresa di un tumore che c'è stato nel passato sia legato anche ai livelli di zucchero. Anzi, mi permetto di dire che forse gli unici dati realmente solidi in proposito, cioè relazione delle malattie con ciò che mangiamo, riguardino proprio lo zucchero e i livelli glicemici. Quindi è ovvio che un'alimentazione adeguata in questo senso sia importante per la prevenzione. Dottor Speciani. Io concordo pienamente, con qualche modifica che consente oggi di dire che, ad esempio, noi che studiamo l'infiammazione, abbiamo parlato anche più volte qui all'interno di questo contenitore nella tua trasmissione, andiamo a misurare, ad esempio, quando studiamo l'alimentazione di un individuo, andiamo a studiare due citochine infiammatorie che sono il BAF e il PAF. che sono un indice preciso, perché tutti sono abituati a misurare puff e puff perché ciccio, c'è il baffetto, l'occhio solo, mi vengono in mente i Minions come infatti in studio abbiamo un'immagine dei due Minions che mi ha chiamato Buff e Puff perché sono simpatici. E di fatto però questi sono un'evoluzione rispetto allo studiare solo VES e PCR, perché la gente va dal medico e normalmente per capire l'infiammazione studia solo due parametri che sono vecchi di 70 anni e sono fermi lì. Allora si scopre ad esempio che quando sei infiammato, questa sostanza che ho chiamato adesso il BAF induce, guarda caso, resistenza insulinica, cioè provoca esattamente una reazione come se tu avessi mangiato un mucchio di dolce, quindi ti facilita l'ingrassamento, ma non solo, lo sviluppo degli ormoni che aprono i vasi, che quindi facilitano l'azione del tumore, inducono delle risposte difensive alterate. Cioè torniamo ad un concetto in cui io non amo dire che è lo zucchero, perché io nell'elenco di prima vengo da una famiglia diabetica ed obesa, quindi ho scelto immediatamente la fetta di pane integrale alle noci e il frullato di banana. Perché? Perché per me l'idea zucchero ha un significato un po', lo mangio tre volte alla settimana, mi faccio dei bei dolci, delle cose, poi mia moglie fa delle cose fantastiche, però ho imparato nella mia vita che per il mio benessere deve essere una cosa occasionale, no? E questo è l'elemento cardinale, cioè di fronte ad una situazione che non è lo zucchero, è il rapporto con l'energia che cambia. Quindi noi stiamo entrando in una fase della medicina, della comprensione, in cui stiamo capendo che le malattie dipendono da un'alterazione del rapporto con l'energia. Lo zucchero non è il simbolo più immediato, dobbiamo tenerne conto, rientra in una visione più olistica che non è solo del cibo cattivo. Allora, zucchero e zuccheri, la voglia di dolce, ci sono delle persone che non resistono, vogliono assolutamente, sentono il bisogno di finire il pasto con un dolcino, un biscottino, un cioccolatino, che quando avvertono una sensazione, il buco allo stomaco, riescono a saziarlo solo ricorrendo a qualche cosa di dolce o a qualcosa della famiglia degli zuccheri. E quindi qua inseriamo anche tutti quelli che, no, sono i carboidrati, cereali, legumi, eccetera. Però hanno, ci sono, lei conoscerà, dottor Speciani, tante persone che dicono: "Dutur, se non mi dà la pasta io non mi sfamo". Allora, se vi ritrovate un po' in questo profilo, 800 24 00 24, chiamateci, raccontateci e noi cercheremo di capire quanto può essere dolce la nostra dieta, se ci sono delle alternative e soprattutto cercheremo di capire se quel segnale che il nostro corpo ci manda è una trappola e invece è un vero segnale di bisogno, di necessità. Leo da Cortina e Maria Luisa dalla provincia di Bologna, buongiorno a tutte e due. Iniziamo da Maria Luisa, buongiorno a lei, benvenuta. Salve, buongiorno. Io volevo fare questa domanda. Sì. Ho una figlia di 20 anni che ha sempre voglia di qualcosa di dolce, soprattutto dopo che ha mangiato, no? Se mangia vuol finire con una cosa dolce. Sì. Cosa si può fare per fargliela calare un po' questa voglia di dolce? E che cosa racconta questa voglia di dolce? È solo golosità, si dice, no? Sono goloso, ma dopo un pasto, dottor Speciani, che cosa significa? Io direi che è uno degli elementi più frequenti con cui ci confrontiamo e che ci spiegano che oggi noi non dobbiamo considerare mai solo un singolo cibo quando ci nutriamo, ma cosa facciamo nell'intera giornata complessivamente. È pazzesco verificare come adolescenti, adulti con questo tipo di dimensione, cioè non posso stare senza un dolce alla fine di un pasto, in realtà ad esempio non abbiano fatto una prima colazione o abbiano fatto una prima colazione solo ed esclusivamente dolce. In quel modo si innesca un meccanismo che è innalzamento della glicemia, abbassamento e senso di fame perenne. Voglio dire, noi abbiamo un ormone dentro, si chiama NPY, si parla di NPY, sì. che ci fa cercare il dolce. Quindi noi siamo potuti diventare grandi dal paleolitico ad oggi grazie ad una ricerca di dolce, che però avevamo occasionale. Allora, oggi una situazione come quella della figlia di Maria Luisa è modificabile nel momento in cui la prima colazione, poi mi sembra che chiami da Cortina, no? Quindi... sicuramente l'abitudine dei cortinesi a delle alimentazioni proteiche, mangiare anche dei dolci che sono ricchi di noci, pinoli, lo strudel, cioè in cui abbiamo dentro farina integrale, uova, latte, cioè... Quindi bisognerebbe, se abbiamo voglia, mi dica se ho capito bene, se dopo pranzo, dopo cena ci viene quella voglia di dolce, molto probabilmente perché noi abbiamo fatto una colazione già ricca di dolce esatto, in cui non mancavano un bilanciamento corretto con le proteine e con la fibra. perché quando noi riusciamo a saziare in una prima colazione con fibra, proteine e carboidrati giusti e complessi, a quel punto ci sta anche il dolce dal punto di vista pratico, la gente torna e dice: sa che ho avuto 8 ore senza avere fame? E lo dico per quelli che hanno qualche etto in più addosso, in quelle 8 ore senza fame, ed è importante per medici, per piloti, per chirurghi, per gente che deve mantenere l'attenzione ancora di più, mi dicono: sappiate che dopo 3 ore parte un ormone, si chiama glucagone, mi dispiace, si chiama così, però fa sempre ridere. Potevate cambiare almeno il nome. Ragazzi, si chiama così. Chiamiamolo cosa possiamo... Gluc, perfetto. Ecco. E che consuma i grassi. Allora, no? Quel senso di modesta fame consuma i grassi. Se noi invece cediamo biecamente ad un impulso forte, mangiamo lo zucchero, interrompiamo questa fantastica azione. E quindi, vedi che quando abbiamo questa voglia di dolce, dobbiamo ragionare sul perché. Allora, proviamo a ragionare sul perché e soprattutto quanta voglia di dolce abbiamo, ma anche quanti, possiamo chiederlo, cucchiaini mettiamo nel caffè, nel tè, oppure se abbiamo il desiderio di mangiare qualche cosa di dolce e utilizziamo delle alternative allo zucchero. Questa è una puntata in cui vogliamo proprio così dare una risposta a tutti i nostri dubbi, dolci e meno dolci, semplici e complessi, perché stavo ragionando che a differenza dei grassi, che ci sono i grassi buoni e i grassi cattivi, gli zuccheri non possiamo fare sugli zuccheri questa differenza, è solamente un problema di quantità e di miscelazione. Io nelle nostre, tra l'altro, ho portato un librettino che si chiama controllare il peso attivando il metabolismo, che andrà poi a chi risolve il quiz che proponiamo tra poco. Però effettivamente quello che io sostengo e segnalo è che è un rispetto profondo del dolce come cultura della tradizione. Noi abbiamo dei momenti di gratificazione, di gioia. Pensiamo al Natale, pensiamo alla Pasqua, pensiamo ai compleanni, pensiamo a delle situazioni positive in cui il dolce, ben fatto, secondo la tradizione, anche utilizzando dei prodotti che non sono sanissimi, però fa parte della nostra gratificazione, della nostra capacità di adattamento. Perfetto. Quello che è deleterio è la dolcificazione sistematica. Allora, dolcificate sistematicamente, dottoressa Luini, faccia la Debora. Perché Debora mancherà per qualche giorno ma poi ritorna. In tutto il dottor Speciani ci ha dato tanti stimoli, sì. A lei arrivano come medico anche e come comunicatore scientifico. Assolutamente, tra l'altro mi è venuta una domanda, forse non è ruolo ma la pongo ugualmente, penso che interessi a tanti. Succede che al di là della voglia di dolce, che è fondamentale in tante situazioni, in tanti stati d'animo anche, ci siano persone che per una serie di diete già fatte, alimentazioni già scelte e anche per disturbi alimentari abbiano perso lo stimolo della fame, cioè non ce l'hanno proprio. A questo punto esiste il modo per rieducarle mangiando? Mi sembra un'ottima domanda, dottor Speciani, lei è pronto per rispondere? Bene, si prepari bene con tutti i suoi buff, gluc, eccetera. Noi continueremo a parlare di dolce dopo naturalmente il GR. D'altra parte però voglio rassicurare le persone che ci stanno scrivendo, come si fa a non aver voglia di dolce, soprattutto quando ci sono un po' di bocconi amari da mandare giù. Parleremo anche della voglia di dolce quando ci sentiamo giù di morale. E d'altronde, calendario alla mano, i giorni dei prossimi mesi da segnarsi sono molti: scadenze fiscali, IMU, TASI, TARI, a scombinare i piani e il bilancio per alcuni pensionati potrebbe cambiare il giorno di pagamento dell'assegno mensile. Cuore e denari. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Ma sappiamo che purtroppo il momento della pensione sempre più raramente rappresenta un periodo in cui godersi il meritato riposo, la famiglia, il tempo libero, perché sono tante le preoccupazioni con cui i pensionati italiani si trovano ad avere a che fare, spesso sulle loro spalle. Pesa anche la necessità di aiutare figli o nipoti in un momento in cui, diciamo la verità, i giovani fanno molta fatica. Anche per questi motivi, nei giorni scorsi, la possibile modifica del giorno di pagamento dell'assegno pensionistico, che la legge di stabilità possibilità avrebbe posticipato al 10 del mese, ha fatto molto arrabbiare i pensionati italiani e i sindacati, naturalmente, che li rappresentano. Ora questa possibilità sembra un po' rientrata. Noi comunque, dopo il GR delle 12, vogliamo fare il punto a Cuore Denari. Ci aiuterà Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Vi chiediamo al nostro numero verde 800 24 00 24 se siete pensionati, ma anche se non lo siete, perché anche solo uno slittamento di 10 giorni nell'accredito dello stipendio della pensione scombinerebbe il vostro bilancio familiare. Che difficoltà potrebbe crearvi nell'immediato? Calendari alla mano, vedremo inoltre che nei prossimi mesi, dopo il giorno 10, ci sono tutta una serie di scadenze che costituiscono per l'appunto altri bocconi amari da mandare giù. IMU, Tari, Tasi, a proposito, quest'ultima vi siete ricordati di pagarla, perché la scadenza per l'acconto era esattamente una settimana fa, ma se vi siete dimenticati ci siamo noi, non possiamo pagarvela, ma possiamo dirmi come fare. Ma cosa me ne importa se mamma ha preparato la sua famosa torta di pere e cioccolato? Ma cosa me ne importa, mi basterà una fetta e una giornata storta. Allora, anche noi abbiamo la torta di cioccolato, non di cioccolato e pere, ma di cioccolato e albicocche. Abbiamo preso un elenco di 9 ricette, tutte dolci, da un libro di cui parliamo oggi, Colazione Brunch per il benessere, un libro scritto dalla famiglia Speciani, diciamo così, sì, esatto. Da Attilio, Michela e anche la moglie di Marina, e dove non ci sono solo ricette dolci, ma ricette anche salate, che hanno in comune una caratteristica di base, che ci aiutano a stare bene, perché sono state proprio create per dare delle risposte al nostro organismo, ma per nutrirlo in modo equilibrato, coniugando, come spesso si dice, gusto e salute. Quindi se vi alluzza qualcuna delle ricette che abbiamo sentito nel nostro elenco, non fate altro che chiamare il nostro numero verde 800 24 00 24 e vi chiederemo. Cosa dice Carmelo? Carmelo vuole metterlo, perché lui mangia anche solo pensando. E a proposito, da chi come Carmelo, e la dottoressa Luini l'anticipava, già solo a sentire questi piatti, queste ricette dolci, viene la voglia di dolce, l'acquolina in bocca. Una fetta di torta di cacao e albicocche, un pancake alle mele, una fetta di pane integrale alle noci, uno yogurt greco e miele, waffle di avena e mirtilli, una crepa alla crema di gianduia, una fetta di torta di cocco, un frullato di banana. A proposito, molti di voi mi stanno chiedendo al 349-238-6666 che cos'è il waffle. Allora, non so se il dottor Speciani vuole lasciare questa domanda per i nostri ascoltatori, perché il dottor Speciani quando viene ci porta sempre dei doni. Oggi ci ha portato questo... due fascicolini che sono molto interessanti. Controllare il peso attivando il metabolismo. Sono, guardi, aspetti che mi metto, che vedo se riesco a capire quante pagine sono. Una ventina di pagine, meno. Sono 18 regole. 18 regolette da portarsi dietro per riattivare il metabolismo. Ma lei aveva anche, quindi scriveteci che cos'è il waffle o telefonate, ma lei aveva anche un'altra domanda più carina, anche perché è un tema interessante, che lega in parte un po' il dolce ad una delle reattività alimentari più rilevanti che si sta presentando oggi, e lega un po' il fatto che ci possa essere una reattività ai prodotti nickel correlati, quindi non solo al nickel, porostella, che ce l'abbiamo tutti un po' di nickel, perché se no il nostro sangue non funzionerebbe nemmeno, ma quello che troviamo. Ed è importante perché effettivamente troviamo anche nei grassi idrogenati vegetali, quindi nei dolci industriali, ad esempio, troviamo spesso prodotti di questo tipo. Allora butto lì un quiz, così aggiungiamo altri due librini di premio. Tra queste sostanze, noce, avena, pasta integrale, cacao, qual è quella che ha il maggior contenuto di nickel? Siccome è un tema, la gente arriva, ne è indotta, e a me piace dire che tra l'altro le reattività alimentari a cibo si guariscono e possono riportare ad un'alimentazione sana e non devono diventare disturbi del comportamento inibitorio, questo è assoluto. Oh, ma questo è vero, vedo la dottoressa Luini che dice finalmente il nostro uomo. Ma anche perché io seguo tutti i giorni donne che hanno avuto il problema di tumore al seno e che dopo sono assolutamente ossessionate da come mangiare, e quando scoprono un'iperreattività a qualcosa davvero non sanno più cosa fare e temono di comportarsi in un modo che poi sarà ulteriore pericolo tumorale per loro. È una cosa drammatica, quindi dico finalmente, perché credo che sdrammatizzare ma dare l'informazione giusta sia fondamentale. Allora noi oggi vogliamo darvi tutte le informazioni. Lo riconfermo questo, anche adesso recentemente all'ultimo congresso allergologico di Dublino, quando uno ricrea tolleranza per un cibo aumenta l'interleuchina 10, che è una sostanza che ha una valenza antitumorale, ad esempio. Quindi significa ricreare tolleranza, mangiare in modo vario e di tutto, è un obiettivo che aiuta per la salute. Chiuso. Bene. Benissimo. Allora, in sostanza, Waffle che cos'è? 800 24 00 24, e dall'elenco del dottor Speciani vediamo quello che è l'alimento che è più ricco. Lo ridico veloce? Sì. Noce, avena, pasta integrale, cacao. Il dottor Noce come poteva non mettere la noce? Cioè... Allora ritorniamo a noi. Allora oggi è puntata dedicata a chi sente forte la voglia di dolce. Mettiamo il dolce, non solamente intendiamo quello che mettiamo nello zucchero e nel caffè, solo i dolci, ma anche in genere la voglia di carboidrati. Che cosa si nasconde dietro tutto questo? Sulla voglia di dolce che insorge a metà mattina o a fine pasto, il dottor Speciani ci ha detto una cosa fondamentale che ripetiamo spesso: attenzione a quello che mangiamo a colazione. Quindi la colazione deve essere varia ed equilibrata. Il dottor Speciani ci darà sicuramente una combinazione, ce ne sono tante nel suo libro, ma la dottoressa Luini proponeva un altro spunto di riflessione per chiedere anche l'aiuto al dottor Speciani, e cioè quelle persone che sono state tanto a dieta, ne hanno provate tante di tutte, alla fine bombardate da queste informazioni e anche sottoposte a tutta una serie di rinunce, alla fine si sentono come confuse, non riescono più a riconoscere gli stimoli. Ho interpretato bene? Sì, noi stessi oggi stiamo parlando di voglia di dolce e di fame, stiamo distinguendo le due cose, i due istinti. In realtà capire bene cosa sia la voglia e cosa sia la fame e come si possa aiutare chi lo stimolo della fame non lo riconosce più mi sembra importante. Indubbiamente, considerato anche il tipo di persone che vede la dottoressa Luini, ci possono essere in molti dei casi che lei vede anche delle inibizioni di tipo psichico forte, cioè una negazione del senso del piacere, una negazione delle percezioni dei messaggi del proprio corpo, e quindi questo ha una valenza più ampia. Però è vero che le persone che non hanno fame perdono in un certo senso degli obiettivi del loro organismo, è uno dei bisogni primari. Allora io, da immunologo, quando vedo persone qualunque tipo di patologia o di disturbo abbiano, che in realtà stanno un pochettino restringendo le loro pulsioni, le proprie intenzioni, le proprie capacità, uso una metafora e dico che bisogna sollevare uno spadino fieramente e indirizzarlo verso il futuro, cioè è un elemento in cui l'intenzionalità ritorni fuori. La fame è un elemento atavico che guida questo tipo di intenzionalità. Chi non ha fame, spesso perché esce da esperienze di questo genere, può essere rieducato. Ci sono tecniche di lavoro, bilanciando correttamente i cibi, non misurando più le calorie ma cercando di percepire alcuni aspetti, che possono aiutare una persona a riprendere uno stimolo. E vediamo se possiamo aiutare Marianna, che ci chiama dalla provincia di Padova, e poi andiamo a Rubina, che ci chiama da Roma. Marianna, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. È sempre un piacere risentirla. Anche per me, grazie. Senta, niente, il mio problema è che mi addormento, ho un ritmo sonnoveglia molto spostato in avanti. Questo è stato diciamo dimostrato attraverso esami strumentali, eccetera, quindi non e allora mi chiedevo se questo non potesse entrarci con la mia voglia di dolce che arriva tardi, a mezzanotte, all'una, alle due. Nel cuore della notte. Sì. La domanda è estremamente interessante perché riavvicina all'esperienza di chi fa i turni. Allora, proprio nel libro, nelle ultime pagine del libro, c'è una descrizione su come è meglio gestire i momenti del risveglio quando uno si risveglia tardi, ad esempio. Quindi a quel punto, esattamente, anziché una prima colazione, deve fare un brunch molto ricco in un certo modo, e quindi si può guidare questo tipo di logica. Però alla fine la risposta, anche se uno ha un'alterazione del ritmo sonno-veglia, è di fare in modo che i singoli pasti abbiano dentro fibra, carboidrati e proteine insieme, quindi un bilanciamento corretto. Vi faccio un esempio, l'esempio con cui Marianna, poi andiamo subito a sentire che cosa succede sulle strade. Marianna, ad esempio, alla sera, per evitare di svegliarsi nel cuore della notte con la voglia di dolci, cosa potrebbe mangiare? Mi faccio un piccolo menù che così immediato capisco. Ma lo dico perché ci sono due piatti, la polenta con lo spezzatino piuttosto che la paella, che sono due piatti tradizionali che sono parte della nostra esperienza e abbinano carboidrati e proteine insieme con un po' di verdura. Questa cosa, nella quantità giusta, mangiata adeguatamente, riduce francamente la voglia di dolce successiva. Mentre se io mangio solo la polenta, o solo la pasta, o solo il riso, alla sera con l'insalata, sano, ma in realtà ho uno stimolo che mi porta ad avere fame nel corso delle 3 ore successive. Allora, noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Volete anche, noi lo faremo, parlare di tutte le alternative dello zucchero. Io metto il miele, io uso il fruttosio, io uso la stevia, che cosa si fa e che cosa non si fa, integrale, di canna, grezzo. 800 24 0024, noi siamo qui. Cuore e denari. La cioccolata non si può resistere, basta che sia fondente al 70% e ce la mangiamo, che problema c'è? Scusa, infatti. Sentiamo il problema invece di Rubina, che ci chiama da Roma. Buongiorno Rubina. Ciao, buongiorno a tutti. Intanto ha un nome bellissimo, che io Grazie. Non avevo mai sentito. Grazie, la mia bisnonna. Vede, Rubina, bello. Va bene, Rubina, allora. Allora, io forse sono un po' fuori dal resto delle persone, nel senso che non mangio dolci, riesco a malapena a mangiare la marmellata, ma non ne sono per niente attratta, e invece vado pazza per la pasta e il salato non riesco a saziarmi se non con pasta, carboidrati. E poi da Roma, certo. Fortunata lei, però zuccheri sempre sono, zuccheri complessi, ma zuccheri. Sono sempre amidi che vengono poi scissi alla fine in zuccheri. C'era un mio amico che diceva, iniziava le conferenze e diceva, non ho mai incontrato un carboidrato che non mi piacesse, che era carina come inizio di comunicazione. E in effetti tutti noi vorremmo essere carboidrati, no? Assolutamente. Se dovessimo scegliere, no? Proteina le piacerebbe. Una noce, come si dice. La polenta che prima nominata mi ha aperto il cuore. Va bene, ci integrale, stiamo. Integrale, polenta integrale. Benissimo. Sì, sì, sì. Stiamo divagando, però no, è vero che alla fine io ad esempio ho un blocco parziale, come dicevo, venendo una famiglia di diabetici e obesi, lo zucchero mi ha sempre piaciuto, bello, però uno dice ma è meglio di no, e probabilmente c'è un motivo anche psichico alla base di una scelta di questo genere. Però in realtà quando uno mangia poi pane e pasta in maniera abbondante, in realtà crea lo stesso questo tipo di rapporto in maniera lievemente più rallentata, ma è lo stesso tipo di rapporto. Un suggerimento per Rubina, che è sempre bellissimo nome, di comunque rifare, come mi ha detto prima, una che fa parte della tradizione anche romana. Basta pensare a un cacio e pepe, cioè vuol dire che uno utilizza delle proteine sulla pasta in modo da bilanciare questo aspetto. Una pasta con i gamberetti e le verdure, cioè sono elementi in cui anziché mangiare solo pasta trovi un bilanciamento che tiene equilibrata l'insulina, come diceva Giovanna prima. Quindi dobbiamo mangiare la pasta, le proteine e giusto, la verdura insieme. E anche la verdura, fare dei gusti, le piace dottoressa Luina? Mi piace molto. Facciamo dei sughi per la pasta che combinino proteine con verdure. E poi scendendo la pasta integrale, che in realtà ha un aumento di proteine già spontaneo, già di suo, per cui in realtà diventiamo vincenti a quel punto e la fame cala e la voglia di rimpinzarsi di ulteriori carboidrati si divide per tre. Dottoressa Luini? Concordo su tutto. E io volevo anche però spezzare una lancia a chi mi sta, per chi, coloro che mi stanno scrivendo, di sottolineare l'aspetto che quando noi ci sentiamo un pochino giù di corda, siamo un po' insomma, oppure particolarmente stressati, il conforto che ti sa dare un bel piatto di pasta oppure un bel dolce, a chi ama il dolce, insomma, è impagabile. Allora, è stata studiata tra l'altro questa relazione. Poi sì. Il dolce ripaga, lei ne parla anche nel suo libro, sì, oltre sì. Il dolore c'è questa sì. Funzione consolatoria sì. Dello zucchero. In realtà, sì, è vero, nel libro che ho scritto con Umberto Veronesi per Cairo, oltre il dolore abbiamo parlato anche di reazione al lutto, lutto inteso come dispiacere, sì. Quindi non necessariamente un lutto. La ricerca di cibo dolce fa parte della reazione. Qualcuno non mangia proprio, qualcuno invece va a cercare il cibo dolce a livello compensativo o consolatorio. È un po' pericoloso perché, come ci spiegherà credo il dottor Speciani, diventa una dipendenza, quindi la soluzione forse non è proprio l'ideale. Però può essere gestita, eh? Gestita, nel senso che uno si concede sapendo che è un momento di compensazione e mettendo dentro due correttivi che sono queste cose che abbiamo detto, si può modulare. Allora prendiamo rapidamente la telefonata di Maria Paola dalla provincia di Pescara. Buongiorno Maria Paola. Buongiorno a voi tutti e grazie di queste splendide indicazioni. Io sono una che adesso si consola tanto con i dolci in periodo di crisi, però ultimamente ho scoperto uno zucchero estratto dalla stevia sì. Che ha zero calorie e zero glucosio, anzi zero zuccheri. Volevo sapere se appunto ci piace, può... dottor Speciani, o allora no. Allora il problema non è le calorie che mettiamo dentro. Questo è un dato che vorrei segnalare per tutti, che noi sentiamo il gusto dolce, e il gusto dolce fa partire i meccanismi di gratificazione e di ricerca. È stato documentato, e tra l'altro, visto che siamo a Cuore Denari, ne parliamo. Io ero su a Londra, lavoro anche a Londra, quando pochi giorni fa è stato dato ampia diffusione a uno studio che noi riportiamo da tempo, che anche i dolcificanti artificiali, quindi a zero calorie, inducono l'ingrassamento nel pasto successivo. Cioè tu lì non mangi calorie lì, però nel pasto dopo il tuo corpo dice: caspita, mi avete fregato, mi avete tolto quello che volevo e lo voglio tutto, e ti prende con gli interessi, no? Allora, quindi, questo piccolo aspetto era in contemporanea con l'uscita della marca maggiore di Cole, sì. Che è uscita con la Coca Life verdina, sì. Con lo zucchero attivo della stevia, giustamente. Che se usata naturalmente è una foglia naturale, a me non piace molto perché ha un retrogusto di liquirizia, ad esempio, però però dolcifica tale quale, e quindi è la dolcificazione su cui dobbiamo ragionare, è il gusto dolce che gratifica da un lato ma induce i meccanismi indipendentemente dalle calorie. Dovremmo fare poi tutta una puntatona su fruttosio, sciroppo d'angelo, eccetera, su questo vi invitiamo, ma forse anche sulla nostra capacità mentale di riprodurre il senso del dolce quando ci pensiamo, e quindi la attivazione degli ormoni, che è tale quale. Fantastica, ma quando è che venite? Allora, quando appena torna Deborah, venite di nuovo tutte e due e apriamo di nuovo. Andiamo questa fuori, campagna. Ci facciamo un gelato subito. Allora, vi abbiamo fatto due domandone. Una, un elenco di alimenti che ha suggerito il dottor Speciani, dovevate ritrovare quello più ricco di nickel. Ci ha pensato Simonetta da Brescia. Buongiorno Simonetta. Buongiorno. Mi fa molto piacere di ascoltarvi, vi sento sempre quando posso. Grazie Simonetta, mi dice qual è l'alimento? È il cacao. Perfetto, bravo, grazie. Brava. Mentre devo dare la linea al GR, il vincitore tra virgolette che ha dato la risposta giusta del waffle, che è una cialda gofrata, una superficie grata, è Valeria via SMS, ce l'ha mandata al 349-238-6666, anche a Valeria, controllare il peso attivando il metabolismo. Noi adesso ci occupiamo di pensioni e coi di tutte le scadenze, quindi grazie al dottor Speciani, grazie alla dottoressa Saluini, alla Procen. Cuore e denari. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie, molto gentile. Pirini? Chi è? Io, Cantozzi. Qui, carissimo Cantozzi, come va? Ecco, devo prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi hai detto? Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Grazie, Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. E Eccoci qua, seconda parte di Cuore Denari. Ci siamo tenuti bocconi amari in fondo, ma per fortuna è arrivato un grande esperto che ci darà delle elucidazioni in merito. Saluto Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Ciao Giovanni. Grazie a voi dell'invito. Con cui in questa mezz'oretta tirata di trasmissione vogliamo parlare di tante cose: dello slittamento al 10 del pagamento delle pensioni, ma anche di tutte le scadenze che ci attendono da qui alla fine dell'anno e di eventuali sorprese. Un po' buone e un po' meno buone. Giovanni, siamo pronti? Sì, dai. Cioè... Allora, diamo i nostri numeri, 800 24 00 24, e voi dateci le vostre scadenze, le tasse che dovete pagare, e anche raccontateci come avete preso questa ipotesi dello slittamento al 10 d'ottobre del pagamento delle pensioni. Tema su cui però bisogna mettere un po' di puntini sulle i, vero Giovanni? C'è stato un po' di... di imprecisione. Vogliamo tranquillizzare un po' di nostri ascoltatori, no? Perché è chiaro che è una norma che è contenuta nel disegno di legge di stabilità e quindi il disegno di legge che comunque adesso deve arrivare in Parlamento, deve affrontare l'iter parlamentare di approvazione, e comunque se venisse approvata così com'è entrerà in vigore dal 2015. Mettiamo quindi questi primi puntini su lei. Poi l'altro aspetto fondamentale, di fondamentale importanza, è che non riguarderà tutti i pensionati. Ieri il chiarimento è arrivato anche dal Ministero dell'Economia, ma riguarderà soltanto una fetta di pensionati, per l'esattezza sono 800.000, che percepiscono ancora un doppio trattamento, un trattamento dell'INPS e dell'INPDAP, cioè praticamente l'ex istituto che si occupava dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Sì. Quindi soltanto in quei casi, e soltanto se la norma venisse approvata così come contenuta nel disegno di legge iniziale, a partire dal 2015 in quel caso il pagamento slitterebbe al 10 del mese, cioè, o meglio, ci sarebbe una sorta di scadenza unica per il pagamento del doppio trattamento al 10 del mese. Quindi non stiamo parlando di tutti quanti i pensionati. È bene precisarlo, perché è chiaro che si è un po' ingenerato il panico per chi percepisce una pensione, perché in gran parte dei casi si tratta di trattamenti molto, molto bassi, pensionati che hanno lavorato una vita e che quindi adesso usufruiscono di una pensione che in qualche modo è l'unico mezzo di sostentamento come reddito mensile, e quindi in qualche modo uno spostamento del termine di pagamento, del differimento rispetto a quello attuale, di qualche giorno rispetto a quello attuale, può creare situazioni di, tra virgolette, trappole delle liquidità, tanto per usare un'espressione da economisti alti. Detto più semplicemente, che se chi si fa i calcoli in un certo modo pensando di avere un reddito a disposizione, se si spostano qualche giorno si rischia di non arrivarci più, almeno per i primi mesi, nel momento in cui entrasse in vigore una norma del genere. Quindi comporterebbe una ripianificazione del reddito complessivo a disposizione, e quindi delle spese da sostenere. Ma ricordiamolo, è esclusivamente una norma che riguarda 800.000, comunque un numero sostanzioso di italiani, ma non tutti quanti i pensionati. Quindi, diciamo, c'è da definire bene il perimetro applicativo, e mi sembra, Nicoletta, che mi dicevi prima c'è una precisazione importante. Perché ho letto, no? Sì, l'ex direttore dell'agenzia IMSS ci precisa che ci ha mandato un messaggio, quindi lo ringraziamo: il pagamento delle pensioni il 10 del mese non dovrebbe portare scompensi ai pensionati. Gli 800.000 interessati hanno in genere una piccola pensione IMSS e un'altra più elevata come ex dipendenti pubblici. Questa veniva pagata al 16, quindi hanno un doppio vantaggio: pagamento anticipato di 6 giorni e un unico flusso di denaro. Con l'occasione ricordiamo che chiunque abbia rapporti con l'INPS trova in internet una copia di tutte le comunicazioni che ha ricevuto dal 2006 in poi. Tutto è una precisazione, importante riguardo, non assolutamente per voler, non voglio essere polemico assolutamente, ma giusto però precisare, perché delineiamo un attimo qual è la realtà dell'italiano al momento. Insomma, in gran parte dei casi stiamo parlando comunque di soggetti anziani che hanno difficoltà ad avere contatto, sì, con la tecnologia, quindi insomma è un bene che siano a disposizione, magari diciamolo ai parenti, ai familiari, di andare che su hanno internet. A un nipote che è un po' più smanettone, che è in grado, sì, di navigare sulla rete. Un nipote smanettone ormai serve, c'è e serve, diciamo la verità, però insomma è una precisazione che può essere rivolta più in questo senso che magari rivolta a un anziano che in qualche modo potrebbe avere difficoltà con le nuove tecnologie informatiche, ecco. Però toglietevi qualunque dubbio, tutte le domande, tutte le scadenze 800 24 00 24. Approfittiamo della presenza e della disponibilità di Giovanni Parente. Giovanni, allora andiamo avanti con le scadenze? L'uomo del malaugurio, quale sono? Che vengo chiamato ogni volta a dare 10. Queste brutte notizie. Ce ne saranno, ne daremo anche qualcuna buona, vero? Poi ne daremo anche qualcuna buona. Il dolce alla fine. Il dolce alla fine, non troppo, dobbiamo ricordarci, abbiamo parlato di dolce sinora, di fare un pasto equilibrato, chissà che cosa mangerai tu a pranzo. Comunque dal 10 ci spostiamo al 16. Ritorniamo un attimo indietro, per l'esattezza. Una settimana fa. Allora, anche voi avete parlato tanto e molto bene del tema della TASI. Pensavate che fosse tutto finito? No, purtroppo è un po' una dannazione in Italia. Le imposte sugli immobili sono state oggetto di troppi ritocchi, troppi cambiamenti in corsa e il quadro non è ben chiaro anche a chi doveva versare o non doveva versare. Quindi in qualche per fortuna c'è Sole 24 Ore. Sole 24 Ore, devo dire la verità, ha fatto un grandissimo lavoro, molto importante in questi giorni, in queste settimane, e lo sta continuando a fare. Negli ultimi due giorni abbiamo visto gli approfondimenti che ci sono stati su un tema che toccheremo fra poco, però non voglio svegliare, e quindi insomma sul tema della tassazione degli immobili in particolare, sì, siamo stati molto presenti e vicini ai nostri lettori sia della carta che dell'online, quindi insomma il tema, come insomma senza traccheggiare troppo, è quello della TASI. Abbiamo chi si è dimenticato o ha sbagliato ha ancora una chance per rimediare, cioè ancora più chance per rimediare, però insomma magari mettiamo nel mirino la scadenza più vicina, che consente anche di minimizzare il danno economico per l'eventuale contribuente ritardatario o che ha fatto un versamento in qualche modo erroneo, perché diciamo che con le regole attualmente vigenti c'è la possibilità di avvalersi di una sorta di correzione sprint che abbassa il livello delle sanzioni da pagare sull'importo appunto dovuto. Quindi tutti subito. Diciamo che soprattutto con un po' di ritardo conviene insomma pagare. Che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del cosiddetto ravvedimento sprint. Per chi paga, per chi corregge l'errore o sana in qualche modo l'errore effettuato dalla data di scadenza, quindi dal 16, la prospettiva appunto è il 30 ottobre, se la cava con appena lo 0,2% di sanzioni per giorno di ritardo. Questo vuol dire ad esempio che naturalmente lo 0,2% si cumula, quindi se sono 2 diventa lo 0,4%, se sono 10 diventa il 2% di sanzioni. Facciamo un esempio banale: il 2% di sanzioni con 10 giorni di ritardo su un importo di 100 euro significa 2 euro. A questo va accumulato comunque anche il saggio di interesse, che è dell'1% annuo. Senza impelagarci, poi magari se qualche ascoltatore avesse voglia, lo facciamo magari fuori onda, e possono sempre scriverci, e voi potete girare alla redazione qualsiasi richiesta di dubbio. Scriveteci, vedi com'è, è magnifico, vero? No, è un feedback importante. Sì, Deborah sarebbe veramente fiera di te, Giovanni. Sono molto contento. Ok, allora? Quindi insomma quello che vogliamo dire è che con questo ravvedimento sprint si riesce a cavarsela in maniera abbastanza indolore con 14 giorni di ritardo. Fermo restando, Nicoletta, che è bene precisare che poi ci sono anche altre possibilità di ravvedimento, perché c'è una sorta di ravvedimento, anche quello abbastanza contenuto, con cui si paga il 3% fino a 30 giorni di ritardo, e poi comunque c'è il saggio del 3,75% che si paga successivamente, quindi però, sostanzialmente sì, io consiglierei di fare quello sprint, ce la togliamo e fine, perché altre scadenze ci attendono. Eh sì, perché attenzione, perché non è che con la TASI ci siamo cavata il 6 di ottobre, era semplice, era tutto bello, cioè sarebbe stato bello vivere in un paese normale, ma non, dal punto di vista fiscale purtroppo l'Italia non ha nulla di normale. E, quindi che cosa ci attende? Che cosa ci attende? Allora, prima di tutto, non tutti hanno pagato la TASI il 16 ottobre, perché? Ci sono stati comuni che sono stati un po' più solerti nella definizione delle aliquote, nella definizione dei delibere e regolamenti, lo hanno fatto entro la scadenza che era stata inizialmente fissata a maggio, e quindi il termine di versamento dell'acconto TASI è stato il 16 giugno. C'è chi invece si è avvalso dei tempi supplementari, che poi prima un decreto d'urgenza, poi una norma che è stata inserita in un decreto legge convertito, insomma in qualche modo ha ratificato la possibilità per i comuni di avere un tempo supplementare per deliberare per quelli che non l'avevano fatto, e quindi si è versato il 16 di ottobre. Ci sono anche quei comuni che non hanno deliberato, No, per cui per non farci mancare per nulla, non farci no? mancare nulla. Ecco. Questo quadro va in qualche modo a unione, perché c'è il 16 di dicembre, che è il giorno in cui chi ha versato l'acconto deve andare a versare anche il saldo della TASI, e quindi come in qualche modo si chiude la stagione del versamento TASI. Attenzione, perché quando il comune non ha deliberato nulla, la TASI si paga tutta con l'aliquota dell'1 per mille il 16 dicembre. Insomma, il 16 è una data in cui tutti i nodi vengono al pettine. In cui no? tutti i nodi vengono al pettine. E quindi, insomma, sostanzialmente si chiude la stagione della TASI. Ma attenzione, non dimentichiamoci che c'è anche l'IMU. Che è un'altra. Volevamo fare a meno dell'IMU, no, farci mancare l'IMU. Che è un'altra imposta in qualche modo soggetta ad autotassazione. Che cosa vuol dire? Che il contribuente a doversi calcolare sulla base appunto degli immobili detenuti, degli immobili prima di tutto soggetti al prelievo, perché ricordiamolo, la TASI sostituisce in gran parte delle situazioni l'IMU sull'abitazione principale, che non si paga più, che è stata abolita l'anno scorso. Però c'è tutta la partita dell'IMU, ad esempio sulle seconde case, chi ha una seconda casa in mare, in montagna, sì, o semplicemente una seconda casa affittata, insomma in qualche modo, o per chi ha nelle situazioni in cui si versa, per chi ha un terreno, o ancora per chi ha un'attività di impresa, un negozio, ha un piccolo laboratorio artigianale, per le grandi imprese, per chi ha un capannone, insomma in questi casi bisogna pagare l'IMU. Tutto chiaro? Tutto a posto? Si possono utilizzare gli stessi dati, quindi fare un saldo che è uguale all'acconto? No. E questo, insomma, lo nasce sapevate? Dal fatto. Lo sapevate? No. Il Sole 24 Ore il Sole 24 Ore sono ormai 3 giorni che sta mettendo in guardia i contribuenti da questo nuovo rischio di rincari che si sta delineando, perché insomma in qualche modo il termine per inviare delle delibere di modifica delle aliquote IMU è scaduto praticamente ieri per l'invio al sito delle finanze. E che cosa è successo, cara Nicoletta? Che ben l'85% dei comuni si è avvalso di questa possibilità, e quindi sostanzialmente in circa 6.900, insomma 6.800 qualcosa comuni, poi insomma il conto lo faremo quando poi tutto il quadro si sarà delineato, il conto preciso ovviamente, insomma adesso abbiamo però un work insomma, in progress, ci muoviamo di siamo quel in quell'ottica lì. In circa 85% dei comuni si è appunto deciso di variare le aliquote dell'IMU. Ecco, in questo caso che cosa succede? Bisogna delineare essenzialmente 2 scenari. Nel caso in cui il comune abbia deciso di aumentare le aliquote IMU, questo vuol dire che praticamente il saldo non sarà pari all'acconto che è stato versato a giugno, il 16 giugno, ma dovrà contenere in qualche modo un conguaglio. Bisognerà fare un conguaglio, sì. E quindi essenzialmente bisognerà versare di più. Ci sono ipotesi che a occhio, a naso, quanto risulta al Sole 24 Ore dovrebbero essere ovviamente inferiori, ma perché nascono da una situazione di compensazione nella determinazione degli aliquote di TASI e IMU, in cui il comune potrebbe aver deciso di ridurre. Sì. E in quel caso, insomma, sostanzialmente c'è la strada del si apre la strada del rimborso, ma è una strada molto dura, c'è un termine di 180 giorni. Senti, che è Giovanni, questa storia insegna che? A pagare c'è sempre tempo. A pagare c'è sempre tempo. Ecco, cioè, perché è questo, no? Questo poi, purtroppo sì, insomma, diciamo che stiamo facendo una rapida carrellata, poi ne parleremo meglio, scenderemo nel dettaglio, sviscereremo tutti quanti i temi, ma poi ci sono anche altre scadenze che non sono solo legate a tassazione immobiliare. Cioè, ad esempio, l'acconto delle imposte, che riguarda molti italiani, per esempio, che hanno una casa affittata con cedolare secca, e quindi in qualche modo dovranno appunto calcolare l'acconto dovuto entro fine novembre, e poi c'è tutta la situazione delle imprese artigiane che devono versare poi le tasse vere e proprie in acconto a entro fine novembre. Vedi, meno male che ci sono le scadenze, che così tu vieni a trovarci, noi invitiamo a leggere il Sole 24 Ore, che accompagna veramente e chiarisce tante cose. E abbiamo Fiorenza che ci chiama dalla provincia di Siena, che così chiudiamo in bellezza con una nostra ascoltatrice. Fiorenza, buongiorno. Coletta, buongiorno, buon lavoro, siete bravissimi. Grazie, Fiorenza. Ascolti, volevo chiedere una cosa. Io ho una pensione INPS e una EMPAC dei consulenti del lavoro. Sì. Ma rientro in quel discorso del 10 o no? Allora, tendenzialmente non dovrebbe riguardare, punto, cioè, perché la precisazione era appunto che riguardava soggetti INPS e ex INPDAP, quindi sostanzialmente chi ha avuto una pensione da dipendente pubblico. Stiamo a vedere, insomma, le ripeto, non vorrei darle un'informazione parziale o fuorviante, aspettiamo anche che cosa succede nel corso di approvazione del DDL di stabilità. Al momento la sua situazione dovrebbe essere al riparo, quindi insomma magari ci aggiorniamo con Nicoletta e con lei più avanti, quando il quadro normativo sarà un po' più delineato. Come a dire, facciamo rete e teniamoci in contatto. Assolutamente. Grazie a Giovanni Parente per essere stato con noi, chiaro, preciso, ci hai dato un po' di steccate, però insomma questo tocca. Quando è che vieni poi a raccontarci qualche cosa di bello, di allora, diciamo, non ci fai tirare fuori denari? Cioè, vabbè, quando invitatemi organizziamo qualcosa. Dai, organizzeremo un Giovanni Parente in versione cuore. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, Marco Lombardo, a Laura Vanossi, a voi che ci avete seguito. Potete come sempre scriverci, noi rispondiamo, e che dire, noi ci sentiamo domani. Grazie e buona giornata. Cuore e denari.